praticamente tutte le mattine quando riesco passo dentro, bevo il caffè al volo, le saluto e così. E non mi fermo tanto perché sono sempre di passaggio per andare a lavoro. Io abito qua dietro, sì, in via Cascina Corba. Da sempre? No, lì ci abitava mia nonna, abitava lì dal 60, sono le case popolari dell'Aler che davano una volta ai poliziotti, ai carabinieri, cioè lo stabile dei carabinieri, dei poliziotti, finanzieri, e poi le famiglie, chiaramente i figli, hanno continuato a vivere lì e ho aspettato insomma il momento buono per comprarla poi, perché hanno fatto l'offerta. Si sta bene qua perché c'è tutto, è una zona tranquilla e vorrei spostare la mia attività in questa zona, sarebbe bello riuscirci. Infatti vediamo se riesco a partecipare anch'io al bando al quale hanno partecipato loro, cioè se riesco a partecipare, a vincere anch'io il bando, vediamo se si riesce a fare qualcosa di qua. Perché tu sei nata a Milano? Sono nata a Milano, sono cresciuta a Trezzano, okay, sul Naviglio, dove vivono i miei genitori, e poi ho girato un po' a Segrate, un po' in Città Studi, ho girato un po' di case, e poi quando è venuta a mancare la mia nonna sono venuta ad abitare qui. Sì, ho il mio negozio di tatuaggi, aperto nel 2013. E siamo in un periodo un po' del cavolo perché i clienti non prenotano per farsi il tatuaggio in questo periodo storico, quindi anche da lì nasce la mia idea di ridimensionarmi piuttosto che avvicinarmi a casa più che altro, perché anche solo il tragitto per andare di là ti parte una mezz'ora buona con lo scooter. In macchina anche in 45 minuti, con due bimbi, asilo, organizzazione, case, tutto, insomma, meglio se mi avvicino. Tu hai sempre tatuato? Ho iniziato quando avevo 17 anni, poi no, nel frattempo ho fatto anche altri lavori, ho lavorato in ambulanza, ho fatto un bel periodo in ambulanza come soccorritore, notte, giorno, notte, festivi, non festivi, sempre a lavoro, e nel tempo libero facevo i tatuaggi. Però sì, che la mia occupazione sono 8 anni, perché ci vuole un po' di tempo per prendere la mano, capire bene i tipi di pelle, i tipi di inchiostri, i disegni che si adattano più a una persona che a un'altra, una parte del corpo piuttosto che un'altra, scusami. E quindi sì, ci sono voluti 6 annetti più o meno prima che decidessi di decidere di aprire il negozio. Ho lavorato anche in altri studi, però ho fatto il liceo artistico e poi il liceo artistico di Brera. Poi sì, mi sono buttata dentro uno studio a Baggio come apprendista, sono stata lì un paio d'anni mentre lavoravo. E poi pian piano ho iniziato a girare qualche studietto a Milano, cose di breve durata in realtà, perché poi si sì, trovare anche trovare un bel rapporto con le persone che fanno quel lavoro tante volte è difficile, perché alcuni sono chiusi nella loro sfera, che non hanno magari intenzione di spiegarti come fare, cioè sono un po' gelosi di quello che fanno alcuni tatuatori, quindi probabilmente ho trovato persone che non avevano voglia di trasmettermi insomma quest'arte, quindi un po' me la sono anche vissuta da sola, nel senso sì, anche solo capire come funzionano le macchinette, come mettere l'ago per fare una linea piuttosto una linea fine piuttosto che una linea un po' più spessa, cioè sono cose che impari col tempo, non è che una persona può mettersi lì e spiegarti tutto e domani sei un tatuatore formato, quindi sono anche cose che devi capire tu col tempo come sono, come funzionano. Ma esistono delle scuole più formalizzate per il tatuaggio? Sì, esistono, fanno dei corsi di una certa durata, tipo corsi da 90, 180 ore, poi ci sono anche corsi specifici piuttosto che per fare il tatuatore adesso devi avere l'attestato dell'ASL, quindi per forza devi passare da una scuola e quindi ci sono sì, diversi centri che insegnano a tatuare agli apprendisti, insomma alle persone che si vogliono approcciare a questo mondo, perché in realtà può farlo chiunque il tatuatore. Oggi può farlo chiunque, quando una volta era più visto da, cioè era più indicato per persone con un certo bagaglio artistico piuttosto che un interesse per l'arte. Adesso veramente lo fanno tutti, chiunque. Cos'è che è cambiato? Sono cambiate le persone, è cambiata la richiesta. Tante persone si tatuano, già 10 anni fa non era così. Quindi nascono sui tatuaggi come funghi, si può dire. Nella mia zona, per dire, eravamo in 3 studi, ne hanno aperti altri 4 nel giro di 5 anni. Quindi anche lì la zona è satura. E poi chiaro, il cliente si affeziona, vede, insomma, riconoscono anche la mano, insomma, vanno anche a... Sì, perché chi preferiscono, insomma, come si dice. Preferisco te perché fai il giapponese piuttosto che te perché fai un tatuaggio più tradizionale o piuttosto un tatuaggio ornamentale. Poi c'è un po' di scelta comunque. Secondo la maggior parte delle persone, il tatuatore è una persona che fa i soldi. Cioè, perché i tatuaggi hanno un costo, ma tenendo in considerazione che c'è del lavoro dietro, l'esperienza, tutto quanto. Il ragazzino che esce da scuola e decide di fare il corso di tatuaggi, quando ha finito di fare il corso può aprirsi lo studio di tatuaggi, non sapendo cosa deve fare esattamente. Quindi capita tante volte che aprono gli studi, fanno tatuaggi non fatti bene e vengono magari anche da noi a farseli coprire, per dire, no? E è una roba che è diventata troppo accessibile a tutti, cioè secondo me dovrebbero fare una scrematura iniziale e insomma rivedere un attimo queste cose, perché non è un lavoro da tutti, secondo me. Fanno perché lo fanno in tanti, cioè è diventata non voglio dire il termine moda, però sì, da un lato sì, però cioè, c'è anche il bisogno di esprimere qualcosa, magari un individuo ha bisogno di esprimere un qualcosa e se lo fa tatuandosi, piuttosto che una ricorrenza, un evento speciale, la nascita di un figlio, piuttosto che la morte di una persona cara. Il bisogno di sentire vicine ancora delle persone che non ci sono più, magari si fanno un tatuaggio in ricordo di, in memoria di una persona cara. Tanti lo fanno partendo da quest'idea, da questo desiderio, questo bisogno. Che tu puoi dire sì, mi tengo la foto sul comodino o mi tengo un maglione piuttosto che... Però è carino, cioè io la vedo una cosa molto forte. Mi piace anche ascoltare le storie delle persone, quindi trovare il disegno che si adatta più alla storia che mi raccontano piuttosto che all'esperienza che hanno avuto, Che poi il tatuaggio può essere anche il frutto di un periodo bello come anche negativo della vita di un individuo. Un raccontarsi storie anche mentre siamo lì a fare il tatuaggio, ci raccontiamo un sacco. È un po' una seduta da uno pseudopsicologo, diciamo, da andare dal tatuatore. Tante persone che hanno già un buon giro di clientela, che sono comunque affermate da tanto tempo in città, si stanno ritirando in studi privati. Sta cambiando questa cosa, appunto, perché il passaggio su strada ti prende un po' tutto, cioè da chi entra per fare la stellina, da chi entra a farsi tutto il braccio giapponese, mentre invece se hai uno studio privato, secondo me, le persone vengono da te perché sanno cosa fai, hanno già chiaro qual è il tuo stile, piuttosto che le tue preferenze di disegno. E quindi è, diciamo, una scrematura anche di quello che ti può entrare dal marciapiede, insomma. La sera andiamo spesso, ci troviamo spesso in zona Isola, che delle altre amiche hanno un bar lì, un bel bar, si chiama Type, e sì, lì ci siamo stati, è stato un punto di ritrovo per un bel po' di tempo, e abbiamo anche organizzato delle mostre, delle esposizioni lì da loro, con altri tatuatori. Ci sono tanti locali che organizzano mensilmente delle esposizioni, ad esempio loro, le ragazze del Type, loro ogni mese hanno un allestimento diverso della parete. Noi, quelle che abbiamo fatto noi sono state due, e una ho preso delle tavole da skate, le ho carteggiate tutte, le ho distribuite a vari amici tatuatori, ognuno l'ha customizzata a modo suo, seguendo il tema del sacro nell'underground. Quindi c'è stato chi ha disegnato cristi sanguinanti tatuati, piuttosto che il sacrificio di una lepre, o Barbie e Ken in versione Guglielmo Tell. No, adesso sono venute fuori delle robe molto interessanti. E la seconda invece era incentrata sul vuoto a rendere. Praticamente il Type mi ha dato le bottiglie dei gin, dei rum vuoti, e anche lì le ho pulite tutte, le ho date a vari artisti, e ognuno l'ha dipinta a modo suo. Lì non c'era un tema, era tema libero, però anche quello è stato molto, molto bello. Sono rimaste in esposizione lì per tutto il mese, e alcune sono state anche acquistate e vendute. È stato bello, perché poi si fa la serata di inaugurazione, diciamo, dell'esposizione, e per quella delle bottiglie abbiamo dipinto dei sottobicchieri di cartone e venduti lì durante la serata. Quindi poi il ricavato l'abbiamo dato in beneficenza per dei bimbi in una scuola in Africa. È stato carino. E vorrei farne altre di esposizioni così, solo che siamo in un periodo così. Però sì, ci sono tante idee, piuttosto che hanno pensato di acquistare delle mani di legno, anche quelle, dipingere queste mani di legno, piuttosto che i biberon, ci era venuto in mente anche fare delle cose un po' matte. Tanti sì, alcuni non piace dipingere, non piace disegnare su carta piuttosto che su altri supporti, quindi fanno dei lavori incredibili su digitale. Adesso si usa tantissimo l'iPad, ci sono scuole di pensiero che l'iPad non è da tatuatori, l'iPad è da grafici, insomma il tatuaggio si disegna con la matita, insomma. È un po' passami il termine, una paraculata, dicono l'iPad, certi tatuatori. Invece io mi ci trovo bene a lavorare con... Faccio la bozza del tatuaggio come se fosse su un foglio. Esatto, solo che non consumo carta, non consumo matite, lo faccio direttamente lì sulla tavoletta. È più pratico, più comodo, invece che portarti dietro il blocco avanti e indietro, quello lo metti nello zaino. Comodissimo. E poi riesci a stampare anche gli stencil per fare i tatuaggi direttamente da lì. Si è evoluto un sacco, sì, prima 10 anni fa, ma neanche 5 anni fa era ancora disegnare a mano sulla carta copiativa, trasferire su pelle, insomma, era un lavoro molto più lungo. Adesso con queste nuove tecnologie si è accelerato molto il processo di creazione del disegno proprio. Vuoi sapere dove ho tatuato io? Sì, grazie. Nell'illegalità, nella cucina di una pasticceria. Vabbè, in case andavo a domicilio i primi tempi. Poi ho tatuato. No, una non si può dire dove ho tatuato. Poi ho tatuato. Vabbè, lì al ristorante, nel retro del ristorante. Sì, un po'. Una mia amica in campeggio, campeggio in tenda. Sì, non è molto igienico. Sì, nel momento in cui disinfetti il tavolo, le parti dove appoggi la macchinetta, cioè sì, serve un attimo di pulizia generale. Un controsenso se stai a vedere le due cose, perché permetti di lavorare a persone così senza uno spazio sufficiente per farlo, quando poi magari in uno studio di tatuaggio devi avere almeno 9 metri quadrati di stanza per poter lavorare, areazione, finestre. Quando i posti dove organizzare le convention sono grandi spazi dove ci sono diversi box che sono magari 3 metri di larghezza, profondità di 2, e sei un po' stretto mentre lavori perché sei magari attaccato all'altro, cioè è un po' scomodo, diciamo. E non c'è molta coerenza quando in una città si possono organizzare queste cose e nello stesso tempo aprire negozi tatuaggi è un po' difficile, insomma, seguire tutte queste regole, diciamo così. C'è un po' di attrito tra le due cose, secondo me. Mascherina, manicotti, grembiule, tutto imbustato, sterilizzato. Prodotti apposta per pulire le persone in studio, cioè una volta che sei tu col cliente in cabina non può entrare nessun altro, quindi anche lì non c'è affollamento dentro allo studio, nel senso sì, ci può essere nel momento in cui vengono magari, non so, l'accompagnatore che aspetta fuori, ma noi di regola diciamo sempre a tutti di non venire accompagnati, più che altro che siamo in 5 nel mio studio si crea un po' di confusione poi aver tante persone lì che aspettano e che fanno un po' di chiacchiere, di insomma di. Poi lavori sulla pelle, cioè nel senso lavori su ferite aperte, la pelle nel momento in cui fai il tatuaggio diventa una ferita. Quindi sì, la contaminazione crociata, epatite, tutte quelle robe lì sono escluse da noi, chiaramente. Cioè noi puliamo sempre tutto, sanifichiamo tutto, non vogliamo evitare qualsiasi cosa di questo tipo. Sì, tante persone quando tornano a casa mi dicono: senti, ma è normale che sento fischiare le orecchie? Sono state magari a tatuargli sulla Certo. spalla, quindi il rumore della macchinetta ce l'hanno proprio dentro all'orecchio, nel timpano. E sì, tante persone quando entrano dicono, oh, mi piace questo rumore, se mi sento a casa, quanto sento questo rumore. O quando sentono il profumo di pulizzo che entrando in negozio senti un odore d'alcol sempre da me. Sì, perché sempre lì a pulire. E dicono tutti, oh, questo rumore, questo ronzio. Alcuni si mettono paura, gli mette ansia il rumore della macchinetta. Altri invece gli piace proprio. Anche su Instagram hanno tanti tatuatori hanno fatto tante dirette durante il periodo del lockdown mentre disegnavano piuttosto che dipingevano e anche lì è stato carino perché tanti artisti molto bravi hanno fatto anche live con altri artisti, quindi sono dati, non so, il tema di disegnare un soggetto e uno lo faceva in un modo, l'altro faceva in un altro. Poi nel frattempo c'erano persone che chiedevano consigli su che carta usare piuttosto che pennelli, ecco, non proprio macchinette perché non era quello il discorso, però erano tatuatori che lo facevano, quindi poi si è ritrovato, alcuni sono ritrovati a farlo anche mentre tatuavano. Sono tatuatori che già seguivo e poi hanno iniziato a fare queste cose. Beh, io adoro Valé Lovette, Delia Vico, principalmente donne. Claudia De Sabe, hanno tutto un modo di tatuare che a me piace tantissimo. Sì, lo stile piuttosto che il tratto, il modo in cui compongono i soggetti, i disegni, i quadri, piuttosto che i colori che usano. Beh, Delia fa principalmente lettering, scritte, e Valé Lovette invece ha uno stile romantico, Art Nouveau, mentre Claudia De Sabe è uno stile non giapponese, diciamo che ha uno stile un po' suo. Se no, c'è Diletta Lembo, anche lei è una ragazza campana molto brava. Lei lavora solo col bianco e nero praticamente. E tutte fanno molto i volti femminili, disegnano questi volti con tanti capelli, lineamenti morbidi, piuttosto che molto contrastati, con molte ombreggiature. Ognuna nel suo modo, chiaramente, però principalmente i soggetti sono volti femminili, fiori, animali, mentre invece Delia scritte, fa pareti, inizia, la vedi, scrive con un pennello e ti fa tutta una parete di scritte, è un piacere guardarla quando fa quelle cose, veramente, bellissimo. Io, a me piace fare troppe cose, non riesco a dedicarmi a una cosa per più di un tot perché poi ne comincio a fare un'altra. Magari ho una tela da finire e inizio a dipingere un vaso, adesso mi sono messa a fare anche il corso di ceramica, quindi sono proprio, passo da una cosa all'altra, dovrei concentrarmi a fare, finire una cosa. Ma è un mio difetto da sempre. Sempre. È un difetto? Secondo me sì, perché non porto mai a termine quello che comincio, cioè è raro. E per mancanza magari di tempo, insomma. Però quando faccio questi progetti di esposizioni, lì chiaro, ho una scadenza, quindi devo finirlo entro un tot. Sempre che non combino qualcosa nel frattempo che fa ritardare il tutto. Però sì, avrei voluto cominciare dall'anno scorso in realtà a girare un pochino, iniziare a far guest in giro per l'Europa. Saltato tutto, vedremo se l'anno prossimo sarà più fattibile. Magari farmi ospitare da altri studi e lavorare come guest artist. Questo si usa? Sì, molto. Sì. Ah, figo. Sì, c'è un bello scambio. A Milano tantissimi artisti passano, anche internazionali, e anche da me sì, ho ospitato diversi artisti più italiani principalmente, amici, comunque persone che conosco. Si fermano magari per 3-4 giorni e fanno i loro lavori. No, è bello perché poi un'occasione per vedersi, per stare insieme, per scambiare anche opinioni, insomma. È un bel lavoro di scambio quello del tatuaggio, secondo me. Almeno io la vedo così, poi ci sono tanti, appunto, come ti dicevo prima, che sono resti a spiegarti piuttosto che raccontarti come fanno a fare certe cose, a lasciare andare i loro segreti, non so come dirti. Devi rubare con gli occhi se vuoi imparare a fare il tatuatore. No, ho preso tanto spunto da tante, cioè ho imparato così, prendendo spunto da tante persone diverse in realtà. Non ho avuto un... Sì, Fabri mi ha aiutato tanto all'inizio. Tante cose che conosco le so grazie a lui, e mi ricordo ancora le cose che mi ha insegnato, sì. Quello sì, forse perché erano le prime cose che conoscevo del tatuaggio, probabilmente. Però chi mi ha fatto entrare in questo, cioè la persona per la quale la persona per la quale devo ringraziare che ho iniziato a intraprendere questa strada è, diciamo, un mio zio, che appunto a 17 anni, vedendomi disegnare, ha detto: ma perché non provi a fare i tatuaggi, a vedere com'è questo mondo? Lui è tatuatore anche lui. E mi ha un po', diciamo, indirizzato in questa strada. Lui insegnava in una scuola a Reggio Emilia e mi ha preso come suo assistente durante le lezioni. Andavo lì a imparare a tatuare. Però sì, è stato proprio l'inizio, cioè lì non ero ancora convinta di quello che poteva essere la strada del tatuaggio, la vedevo un po' come una roba difficile, non era partito proprio non c'era stata quella scintilla che mi ha fatto dire sì, ok, questa è la mia strada.